Ciao Marco. Ciao Tino. Come va Tino? Ma come fai il bassino bassino? Ma forse ci avevo io il volume troppo basso, boh. Io vedi tu che stiamo fando la vocina. No, no. No, io sono sempre vero, non ho toccato niente. Allora, ma lo fa. Sì, Garù. Sì, va. Che a me mi manca l'appello. la moto, e da via Crucis il negozio. Domani mattina mi avvicino, vediamo un po'. Perché c'è poco un po' curvice a me. C'era andata un'altra, lo faccio allucinare, capi giusto. Uno posto, E dopo va come il Mario. A me già mi dirà. Uno posto, come tu rigaro. La macchina impara. Oh Luca. Ma chi è Mario? Mario? No, forse lo conosci, non come si chiama. No, pensavo che era quello di pesca, pesca sugo. Chi si lo cambia con da pesceri? Ah, ho capito. No, pensavo che era lui che ti aveva dato il lavoro nella barca. No, non era attivo. Non era attivo, sì. Ecco, va bene, ho fatto così a prima paura con gli altri. Una volta lo sono fregato. Mi ha fatto dei conti, poi dovevo piazza delle tende. Lui è diventato io con lui, con la piazza delle tende. Mi ha fatto dei conti, Millu, sono a piazzare 10 tende, tiro 200 euro, no, guardi, 180 euro era. Ma come me lo posso fare? Vai, se la andrò mai domenica, che sono fatto domenica, non c'è problema, la giudice non va. Io questo giro mi servivano. Devo comprarmi il castellumano a vestire, una qualche maglietta, vabbè, passano due giorni, e fa quattro anni, e vede il fratello anche, faccio una mano. Ma pagami, ascolti, ho detto di meno perché non sto prendendo il fratello, no, il tuo mi ha fatto un culo in occhi, cioè, mi ha detto, quei soldi lì, ecco che vuole di meno, che te non avevo, sì, vabbè, Dio, ma che dì me lo vuoi fare? Tu dove te le piatti tu? Ti trovo a fare la cagà a fare. No, non va bene. Non va bene perché uno si fa delle cose mentali che, insomma, se non va quello che è stato stabilito, poi viene male. Purtroppo, vabbè, esistono queste persone. Ora ci vuoi fare. Ora stai molto attento, come fa uno mi piglia assolutamente perché sono chiamato ma no guarda è un tipo che guarda mi guadagna me guadagna vabbè lavora ci dà la maglia che non vedi però guadagna e lui praticamente mi ha fatto capire che deve andare a mangiare la sua famiglia vabbè lui è sposato una figlia un figlio era la famiglia, c'è il padre, la madre, a noi cosa mi dà tutti? Lo faccio un figlio, ma scusa, uno non se lo prende l'operaio, perché l'operaio, anzi, a quanto mi è fatto capire, ora tu teoricamente sei anche il nero. Beh, certo, sono il nero anche. In più mi saranno una miseria, poi ti direi, noi aprivo a te, noi di questo ti regalo qualcosa in più, guarda che cavolo rigare, cosa rigare, cioè mi stiamo facendo un culo in occhi, mi dà di meno, ma io non ti capisco. Ma io se mi metto in su, se fate 40, forza. Va bene, così ti permette. Ma come no, guarda, non è una puttunga di tagliare il discorso, no. Domani mattina mi avvicino, vediamo un po'. Ciao a tutti. Non credo che sia un ragazzo, ma lasciatemi fare le sole che vanno sempre. Ma adesso? Chissà perché a me vanno solo, Ma lei non lo vede, sì, non mi facciamo questo cazzo. A me vanno solo, non vengo, perché mi svegli, Guarda, io non l'ho visto, mi sei passato per le mani, mi sei al volo, e poi non l'ho visto. No, tu devi dire che li hai toccati con la mano sinistra, però con la destra dei lati, quindi... Non so che non ti do le mani, perché mi ha preso in mano e non sono preso sul tavolo, ma tu non lo visto. Vabbè, allora, cosa vuoi farci? L'importante è che sei riuscito a fare qualcosa. Grazie. Ehi, Mario! Già, questo è Antonio. Si lamenta lui, e cosa devono dire gli altri? Ieri mattina ho dato 20 euro a mio figlio a comprare il pane, ha comprato un paio di uova, ha comprato un etto di salame per farsi il panino. Ha detto, ma non riso, vedi che riso, non vedete nulla, non si può comprare più nulla da matita. Poi e quello sì, io l'ho rinviato dopo, la giudizio, bombo, non è comprato tutto, arriva tutto, la milizia vita, non so come, la occasione, cosa è mia, non più del mare, noi sarcofi, quattro e lì, ma fare salata, e fare genera, ma... Thank you. perché apprende, sì, cazzo apprende. Ma come si chiamati voi? Ma è rimasto un tappo, ma... Che c'è un tappo di quelli piccoli sembrava? Ma sai, già ce l'ha mangiati. No, ma no. ufficiato. Ho un massicapo. Ui, ui, sono quello che va. Ah, cambia la maledetta. Lo pediatra cosa ti ha detto? Nulla, si rompo nulla. Certo, a mio modo se ne fate vedere anche 6 mesi, quindi ci per immagini le scuole sono 15. Gracias. vabbè, cose che succedono. No, io ieri ho acceso, quando sono rientrato al lavoro, c'era Natalina, ci abbiamo fatto un paio di chiacchiere. Poi siamo andati per cenare verso le 9, 8:30, non l'ho guardato l'orologio. Quando ho finito di cenare, si inizia a tombare, ovvero manco un cane. Tutti i cani morti sono. E a Natalino, mi è rientrato, Sì, vabbè, ho avvisato, no, che avevo finito quello che stavo facendo, adesso sono rientrato. E io infatti ti ho detto, mi è rientrato, perché non sapevo che stavi facendo cosa. Avevo sentito con le orecchie. È logico che hai sentito con le orecchie, perché io già te l'ho detto con la bocca. Gappa, meglio se Gianni. Mario, va, io ti parlo di mo. Vai, non ti rompi torna, se no vai che ti diluri bene. Posso? Io vorrei stare sveglio, ma tante volte non ce la fai, più forte di te. Beh, quando la stanchezza c'è, non è una scusa, No, io ieri sera sono stato un po', non ho sentito nessuno. E poi ieri mi direi, quando mi sono convocato, ho sentito solo ma con cara, di me mi sono convocato. E ho dormito fino a stamattina alle 6:20, 6:15, così. Thank you. a tutti, anche agli orecchioni che ascoltano, alla croce. Anche agli orecchioni ci sono tre pezzi, ascoltando, bubu. E allora, quelli che hanno le orecchie lunghe già ci sono, già. Ah, le orecchie di porco tu volevi dire. Orecchioni, è un'altra cosa, lì. Quelli sono orecchie di porco, gli altri sono orecchioni. Si capisce, mi pare rispetto, e quindi se mi sono capito sul microfono. il microfono è un MG338 della Hitec. L'apparato è il 707. Così la abbasso un po', vedi se così è meglio o peggio. E così ho pensato che non c'è sempre di più. Gappa, gappa. È tutto al massimo. Così, quello lì è tutto al massimo, così che è niente, là. Per me è il microfono che non serve. Ma non è allora, Mario. Io spiego, tu lo fai nel senso. Se ti rimetto, la fai nel senso di me. Ma io, Mario, lo conto di persona. Mamma mia, va, già era un bel pensiero, un bel seduto, secondo me mi ricordo una casa di Sano, mi posso dire, ero lì, furono una porta aperta, l'estate, stavano mangiando, mi sembra, stavano cucinando, stavano mangiando, mi freddo, un musato, sì, ma la testa grossa, ogni anno vai fuori, vai fuori. Che c'è uno scopo qui. quindi non va bene mai la cosa, c'è poco da regolare lì. Oggi è l'ultimo giorno. Ma l'hanno prolungato fino al 15, sembra. 11 in giro. Come si dà l'11, forse l'11. Ma poi vendiamo qui anche in 6.000, 8.000. E dove si è andato tutta la come? Mi ha fatto, male a pochi. Ma non perdere, ci faceva dare qualcosa. Qui sta a dire quel brino, mamma mia. Ma sono andato e gli ho chiesto quanti punti c'erano. 650, 670. Sono modificato comunque. Infatti sono arrivato lì, ci voleva il numero era. E i numeri erano finiti. Allora, io penso che mi controllavo la scheda, dove sono andato. Sono poi niente di lascia. Infatti c'è pure la ciclo lunga. Yeah. cantiere, perché poi la Rai l'hanno fatto a vicino a Cugnotto. Ruiaia, per carità, ma lì erano proprio, guarda, mangiamo merda, ma le cazzo c'erano un bel, vabbè, gente che lavorava lì dentro da 4-5 anni. Dai, esisti, proprio le culo. Ma devi dire, io fai questo, fai quello, ma ragazzi, fai questo, fai quello, vai, ce l'ha andata. E ci sono sempre quelli che vogliono fare la scarpa e cosa? Quelli che comandano, che ci vogliono far vedere. Ma io già, mi voglio fare municipalizzare di brutto. Allora, ma andavano già a cantavano. Poi mi chiamavano i punti che venga qua, venga, venga pure, mica. E ma, perché? Se mi hanno messo queste corsi d'acqua, mi hanno messo a posto, mi hanno messo a mettere a posto là, le frane dell'acqua e non ti chiamo di andare. E vabbè, questo lo mandavo qua sempre, io ti chiamo qua sempre. Per carità, la regia, proprio qua. Poi c'era un tipo, moletica, bravo, bravo, ma danno, tanto in malattia. Poi arrivi a Luca, vieni Luca, vieni, e non c'è, vieni, ti ha messo a posto una banana di gazzonza, di Sprite, una banana, due banane di acqua. Infatti in strada poi andiamo sulla banana. Che gamba vai? Sì, se no si è buttato qua. Tanto due settimane che facevo questo qua, sedane di uri, poi ci spaccavo 4-5 tassoni, sì, anche 10. Poi c'è un blocco, ci facevo lui, non so, preparato, lo stava lì nell'altro magazzino. E mi dice, aiuto, sono così, andavo a vedere come c'era la mondezza, ma un bel dinamica, anche le bottiglie di lui, d'oliva, di giusto, prati, di tutto, anche cazzo di Coca-Cola, di tutto già, di tutto di più. Ma non so qua, sta ricaduto il tiro della ricidiale. Se no mette a posto cartellini qua già. Inizia il primo, va a lanciare, va a buttare su sopra il... come si chiama? Va. Sopra un soffalco era. Uno su e uno li buttava, il primo leggero, vai, vai. Poi arriviamo a 30, 40, e poi arriviamo anche mille, mille confezioni di cartellini, cascotte. Questa cosa che stava a pisare Gianni, ui ui, la braccia a terra. Ah, io la butti, la cosa che la butti, calmati, calmati, che tipo si chiamava, aspetta, si chiama, ma Antonio mi pare, no, non Antonio, Giuseppe. Ma Gianni, ti conosco qua, era un rompiballe, ma rompiballe. Allora, se mi lavoro qua, glielo dico, fa di giro, se me la futti, fatti che ti comandenti. E rilassati, comoda, rilassati, rilassati di giù, stai calmo. Non so cosa c'è, chi lancia, si stacca un becco, chi lo prende, no? Ma cosa c'è, cosa c'è Luca? Ah, ti dico pure che andavano dal capo, dal padrone, e gli dicevano quasi Luca. La prima che io sono lì facendo il mio burro, già. Ma io non so cosa da fare, dai. Sì, chi mi sono, guarda. Vabbè, io non ho mai troppo trovato in giro. Ma dico che mi sono dimenticato, anche se sono passati 5 anni. Mi sono lasciato in giro, ha visto? Sono un gatto in casa una volta. Ma voglio vedere, voglio vedere cosa dire, cosa ha visto? Mario? Già. Purtroppo è così, Luca. Quelle che... quando arriva, quando arrivo, ci sono sempre quei rotti coglioni, non mi dico ma te ne vendi. Quelli lì a me, non mi piace, non mi annuncia. E che... disse che come se arrivano un uomo le carichette del dottor Castro che bravaglia a esso e lui disse che la tenne le balle e da poi andano a dire il contrario, che è arrivato belle cose che tu non hai fatto nulla e io se mi sarei sempre più davvero di passare con un bellissimo letto elettrici se vuoi se lo vedo a passare in pieno. Mario, lo so, guarda quel tipo l'aveva buttato la porta, gli ho detto prima. Hai visto quanto è il combo quanto un cane, lo voleva pulire. Sì, io gli avevo passato la discopa alla corsia a raccogliere fogliettini, pezzi di carta. Hai visto quello che ha pulito, quanto è il combo era grande. E vabbè, a me ogni giorno cambiavano la corsia, quella dei liquori, poi quelle, quella dei detersivi, poi quella degli sciampi, li vedo tutti i sciampi, ogni schiuma, profumi, di tutto. Poi domani vado a consigliare la centrale, tutta la roba olio, questa roba qua. La poi mi chiamavano di dare la pasta. Ma ogni anno mi chiamavano, io non ti lascio avere una, no? Già sono una corsia, a me fa la conoscere dare i prodotti. Ma ti fa, lui guarda quei bandi, non so, Mixa, Plus, bandi, no, oramai un buon nome di resto, lo conoscono, come lo conosci? E mi ha fatto un gioco, fa, mi cambia, ma non vado a conoscerlo, adesso non si cavare tu. Problemi, vi ascolto tre riprendi a tu. No, ma se fa si parla della tua, della tua, io prendo la panica la vicina. Ma tu non puoi dipende adesso, che come si fa? Sto cantando sbagliato, va bene, va. Thank you. sono assurdo. E quindi ho lavorato bene in ricezione. Poi sono assurdo. E lui mi ha detto, questa non c'è tanto, perché magari non posso io direttamente la prima di metterlo. Ho fatto la doccia 5 minuti, 10 minuti, quanto ci sarà.

nelle opere principali, non è così. E la principale sono arrivato e sono mangiato. No, in momenti così pesanti, magari altri momenti sei più tranquillo, sai, tutto il giorno a riposo, non dico per fare riposo, più tranquillo. Thank you. arriva a zero, non c'è segnale. Ma quando arriva a 9? Ma è zero, neanche se appena appena sono riuscito a percepire qualche parola, zero in assoluto, non è mai arrivato così basso, cosa ha fatto? Qua era quanto ero 7, 8. Guarda, Franco, sì, basso basso, a livello di QRM, quasi zero. Comunque la radio qua è aumentata qua, più forte. Fa un passaggio per chi controlla il stazionale, vai. No. Black, avanti. Breccere, buonasera, Salvatore. Ciao Salvatore, ho sentito che ho riempito il barranco e adesso sono bello contento. Cazzo, abbiamo finito. Io mi sono... A pranzo, mica ci sediamo a pranzo, talmente c'è poco tempo, però già che facciamo proprio un passaggio, un panino e via, e poi si riprende. Ok, grazie per aver fatto entrare. Mario, entra. Sì, l'ho vista, sì. Sono passata anche stamattina con le nuove liste. perché ho accompagnato un mio cliente e l'ho visto, non l'ho vista. E beh, c'è ragione, ce ne sono solo due, prima era pieno, Castelmonte era meglio che ci dica. Ma l'hai visto? E come te l'ha portato? Tu vuoi che tocca affitto, dai. Cappa, prima sì che c'erano un bel. E beh, come è solo te, ti è stata bene, benino, male, com'è? Finché non mi dà qualche problema. Bene, grazie, questa sera, sai che è piccolo piccolo è qua. Thank you. poco spingi un po' di più, quella radio va benissimo. Comunque poi hai fatto un miracolo, da non sentirti quasi niente sei passato a toccare anche la portata, non ti dico altro. Sì, va bene. Avete parlato in due. Ho detto che va bene la radio, va più che bene. Luca, e tu a chi hai ascoltato quando ha parlato Luca e il trovatore? Non ho capito. A te Luca. A Luca Fifre, stavo dicendo. Tu a chi hai ascoltato quando ha parlato Manicomio e il trovatore? Ciao, buon cuore e buon tutto alle prossime, avanti Roberto. Ciao a te. casino, buon recupero per domani e buon lavoro. Ciao ciao. Cosa pagava di affitto, cazzo, cioè, ci vuole pausa e è andata male. Capito, vabbè, ma un ragazzo che ho visto che si era imboccato le mani, che come in campo e anche sul lavoro, come è uno di quelli che in campo, io mi ricordo, abbassa la testa e soffre, prende il colpo e soffre, anche nella vita mi sembra la stessa cosa. Capa capa, ho visto, si è messo sotto subito, si è messo a fare un altro tipo totalmente diverso di lavoro. E qui vuol dire che è un ragazzo in gamba, che c'ha carattere. Capa, sì. Ok, riprendi Luca. Luca. E lo dice che sta cambiando il malacchino, perché con quello lì dice che sta prendendo un po' di colpi. Ma ok, ma guarda che c'ha gente sul 20, ma non penso che era così da fare le parti sue, forse non concordo che fosse le parti sue. Ma no, ci sono, dai, sta per un malacchino, ci sono i bianco, sì, li prendo, ma molto di meno, sta pagava, ci sono. Stavo dicendo, Luca, c'è gente sul 20, ma allora deve essere molto vicino a te a prendere colpi. Eravamo lì sempre, diciamo che se ci ritrovo lì, quindi non si frequenta, poi Giuseppe l'ha mollato e ha fatto un'altra parte. Conosco lui, sì, conosco Mazzarino, conosco Luigi Congiatto, Tassilli, poi c'è Ramondo, poi c'è Marco, sì, se li conosco. Era la squadra che ti ho visto lì, va, a tutto me l'avrei visto. Poi c'è cosa, però c'è l'opera, questa non si chiama, che mi stima, Carlo. Sì, sì, sì, sì, c'è Carlo, c'è Carlo, sì. Carlo, ma non c'è più lì qua. Ok, riprendo Roberto, come si conosce abbiamo fatto? Ma qua stanno entrando di brutto, cosa, lo metto vicino qua, arrivava la bomba, mi copriva quasi. Perché ho sentito un bel sblatto? Ho sentito qua arrivano le più 10, confermi. Tutti, Gian Felice Sole, vi siete dimenticati, Tinuccio Mura, Marcello Carta. Ha ragione, sì. E magari ci conosciamo pure lì, magari ci conosciamo senz'altro. Noi sono tanto che non ci vado, perché ripeto, quest'anno per me è stato un anno di stand-by, ma fate la persona lo riprenda, perché alla fine ti fa piacere ogni tanto frequentare così. Ok, riprendi Mario. Potrei prendere, che macchina c'è trovato? Io, guarda, ti dico solo una cosa, un periodo passavo, non facevo la mia, ma la prestavano, che avevo una macchina molto sportiva, rossa, con la F. Una macchina molto sportiva, la F. La Ferrari, no? Guarda che in cosa, in cassetta? Non l'ho mai visto in cassetta, però. No, non l'ho visto, aspetta. No, sta macchinando, non c'è una persona, ma non sei tu, no. Oh, negativo, io non l'ho mai visto, trovato. No, negativo, se penso, sì, l'ho vista, l'ho mai vista, lì in cassetta. Esatto, mai è capitato che non c'è lì, allora, poi va bene, poi c'avevo il nuovo volume perché mi serviva proprio per portare i ragazzi. Comunque, niente, ma dovremmo riconoscerci, tanto via, adesso troviamo il sistema e ci troviamo. E poi vabbè, quando ci vediamo, tu ridi, succede sempre così. Ok, riprendi Mario. Io già la conosco quella lì rossa. C'è anche le fotografie di mio figlio. Mario, sei matto? Lo so che sono matto, sono fuori cazzo, sono in orizzontale. Ma se arrivano da colpi, da fare la 7 a 9 e 10. Cosa vuoi che ti dica? Ma va bene? Negativo, qua no. Allora non ci posso fare nulla. Come non è niente? E come Massimo già di segnale anche, ma ci ha ammazzato qua. Cos'è che fa? Ma cosa ne sono spettore? Scappa. Sono in camera di Davide, usando il baracchino di Davide. E niente, là. Ah, però c'è qualche problema lì, Mario, perché sembra molto... Cioè, io ti sento, ma l'attore non ti sento molto bene. Ma sì, credo, ma poi toccavi salire a un certo punto, ma in senso di qualche passo a contatto, qualche cosa che non va, non sto facendo cara massa, poi controllato lo sorge che non c'è qualcosa, e riprendi l'ombre che Mario si controlla tutto nel frattempo. Cappa, l'ombre, tu mi scusa, l'ombre, ho fatto una curiosità, ma tu abiti vicino a dove lavori o sei dall'altra parte? Ah, io adesso mi sono trasferito, prima abitavo dove lavoravo, quasi a fianco, si vedevano le antenne, se sono sempre viste, chi passava le vedeva, erano in vista, adesso mi sono trasferito, adesso non sono lì più. Aspetta, che mi ha fatto un turbo sulla tettuia? Sì, sul tetto c'è una prova turbo, c'è una V e una U, c'è un dipolo, c'è una V, sì, c'era. Sì, oggi ho visto le antenne lì. Infatti ho convinto che era magari di qualche ditta, magari che lo usavano per parlare con quelli che facevano le consegne. E non c'erano le sue. Pappa, sì. Quelli sono io. Dove c'era un impianto di carburante sopra? Sì, Pappa, poi non c'è bisogno di... Io capito e falato. Ecco, però non ci sono più lì, oh, Luca. Abbiamo capito, più o meno, facciamo sempre lì. Cavaliamo. Come mi ha trovato vostro... Come ti sei andato da lì? Ho trovato qua una cosa che stavo cercando da tempo, un'occasione, tra virgolette, e niente, mi sono andato via. E sono molto lì, dove diciamo che sono più in libertà, Luca. Io sono un po' tipo che mi piace essere un po' isolato, capito? E qua si c'è tranquillità e tutto. Non me ne faccio più, non lo voglio più, me lo vendo e non perdo soldi. sui 40.000 euro la trovi una di quelle macchine lì e fai un figurone, quando passi si girano a guardarti. Puoi passare col BMW più bello del mondo, però non è la stessa cosa. Questo è vero, è un passo inosservato, l'ho provato anch'io, non c'è niente da fare, hai ragione. Guarda che c'avevo un altro amico che ci aveva preso lo Jaguar, il coupé, e bene, ha pagato molto di più, e passava, cioè non passava nemmeno inosservato senz'altro di uscire con quella. E questo è vero, la gente attira il nome, il rombo, poi Ferrari è sempre Ferrari, non ce n'è per nessuno, c'è il Porsche, bella macchina, ma non è competitivo a me, per fargli un po' di aria la gente deve uscire con un Lamborghini, una Diablo, una Countach, cioè forse si girano più o meno allo stesso livello di Ferrari, ma Porsche ormai è veramente troppo agli esi. Sì, no, dico, hai ragione tu, perché avete fatto proporzione su distesi e investimenti, hai ragione. Quelle lì, lui ha fatto questo, questa amica ha fatto questo ragionamento, io con quei soldi mi cerco un usato, mi posso comprare un Fox, un M5, con un BMW sempre con quei cavalli. Beh, io invece preferisco quello perché è proprio il gusto anche, il gusto di averlo, abbiato a lui. E poi Mario, se mi senti, purtroppo l'ha distrutto, Come l'ha distrutto? Come l'ha distrutto Salvatore? Quindi si è tirato un albero entrando a sosso. Che fine ha fatto? Un po' gli ho chiesto a vedere come stava la rossa e mi ha detto che già stava bene. Magari non l'ha voluto dire perché mi dispiace più di quanto, meno male non si è fatto niente, questa è la cosa da dire. Però a lui mi dispiace perché non sa neanche se si può mettere a posto, perché l'ha preso di fianco il colpo a Robè, quindi si è proprio girato nell'albero. No, ripeti, non ero un attimino disattento, ha detto l'ha preso di fianco? Non l'ha preso frontalmente, l'ha preso proprio di fianco, si è apposta, si è girata intorno all'albero. Ma quindi non la ripara questa macchina? Ah, guarda, l'ultima volta mi ha detto che non sapeva cosa fare, perché l'ha portata in un capannone e mi ha detto che non sapeva, era un po' giù così, di morale, perché gli dispiaceva, e ci teneva, la teneva come un gioiello, guarda, e gli è piaciuta, gli è sfuggito tantissimo, però io magari ho capito che era un momento così, che non sapevo neanche che decisione prendere, Robe. Adesso magari tanto lo vedrò, penso di vederlo a fine settimana e vediamo un po' cosa che decisione ha preso. Ma cosa è successo di recente questa? Sì, abbastanza recente. Ma guarda che si trova qualcosa di pizzi di quella macchina, cos'è lo sportello al tuo entrato? No, proprio si è piegata, tu prendi, c'hai una U. La presa perché è arrivata di fianco, ha fatto testa a coda e è arrivata di fianco, capito? È uscita proprio da sotto, neanche lui lo capisce come gli è successo, perché guarda, a me c'è anche un casino di strada, però stava pompando, oppure magari così era per farsi vedere, ma non l'ha detto. Comunque adesso ve lo fine settimana gli chiedo a vedere cosa ha ucciso. C'è un break molto basso, fa l'entrare tu Roberto, perché non so se era un break o se era un qualche cosa che stava parlando. Davanti il break. Ragazzi, non sento nessuno Roberto. Allora magari era così, era uno sbatto da qualche parte. Ok, riprendi Luca. Io ho sentito passo passo, però non riesco a decifrare. Confermo che sia quello di sorso e adesso c'è la tutta capottata. Perché adesso non lo so se a Torre è stato riferito giusto oppure magari per la vergogna, capito? Però l'amico di sorso ha detto che l'ha tutta capottata. Che cosa stai male? Cosa stai dicendo? La macchina? Daffa, l'amico che stava modulando sotto, che voi non lo sentite mai io sì, ha detto che l'ha tutta capottata. Adesso dillo a Torre, a maestrale, perché per vedere se lui ne sa qualcosa. Stavolta ha detto che la macchina lì l'ha tutta capottata. Dice che ha detto, non so, c'è questo tipo che c'è sotto, un matto, che non lo sento. Confermi.

esercizio. Capito? Niente, sì, se ci aspetta l'occasione se le porto pure a vedere. Io ho avuto le foto prima di vederla tu, quella macchina, d'ore. Niente, niente. No, mi dispiace tantissimo perché era veramente una gran bella macchina. Cioè, a me, io quando l'ho vista, solo che ho provato a sedermi perché stavo. Quando non è targata a sassa arriva la macchina? No, negativo, negativo, non è targata a sassa. E allora la conosco, sicuramente la conosco. Ma non è una Ferrari. Cassa. Quali danno c'ha? A quanto pare si può riparabile. Cioè, io ci sta dicendo più notizie dell'amico di sassa che stava dicendo una cosa. Si possono regolare, magari si è seduta in terra rispetto a una macchina normale, ma possibilità di sedersi, perché ci stanno gente anche di 1,90 m, non hanno per i mercati americani con la maschera, non ci sono problemi. Magari è un po' dura, non c'è la comodità di un sedile di una macchina normale. Beh, diciamo che anche con la miglia sembra che si stesse dando guardia per terra, vabbè, non è che si cambiava molto, però io mi ci trovavo troppo, cioè quando l'ho aperta che mi stavo sedendo, ho visto che era molto stretto per sedersi anche là, vabbè, che quella persona si parte di me, perché lui aveva bisogno di meno spazio. Vabbè, Mario, ma stai uscendo con l'antenna piccola o con la mantola? Ma no, con la mantola posso uscire, però c'ho il baracchino nella camera del televisore, sto usando il microfono normale, che non serve a nulla, ma adesso piano piano voglio di comprare questo microfono, invece di amplificare, così. Così è meglio, ma anche perché se non ho detto a chi la possibilità di qualche seminario per fare il giro anche non è meglio. Perché di radio sei molto basso. Cosa ti vuole, che cos'è? Che apparato è questo? Questo sì, KK, riprendi tu Luca. Come hai visto? Ma non ci bruca, mi giuro un momento, mi metto fuori una sigaretta. E poi mi saluto, guardo pure televisione, lega. Ma gli stessi a qualcuno in sigaretta pure, lui, ma gli stessi erano contati. Non sono uscito in moto oggi, Luca, ma non ho credo che c'è il cazzo tu era un freddo oggi, ma era un allenamento micidiale. Questo sono uscito. Vediamo con questo vero, perché non mi metti da questo bene. I guanti, non so che guanti. Dobbiamo fare la nostra. Ma no, a me le mani mi si ghiacciano subito, ma in altre parti non è un freddo a faccia, ma le mani guai. Infatti io le mani sono freddo, quando ci andiamo al giro questa sera, si cai si stira, fredda lì, le mani fredde, ghiacciate, proprio, ma è freddo di me. Non so, caspita, a me mi dà subito i geloni, infatti ci devo stare attento. Gaffa, vabbè. Che fisca questo balordo d'inverno, cazzo è micidiale, cazzo, tutto ad un'ora di farmi più freddo. Ma a me è l'estate, non faccio più di cazzo, vabbè, si sta, io non so quel caldo, molto, infatti io, vuoi mettere avanti lunghe, mi sono detto, ma come il caldo, forse più ti scopo per giovane. KK, lo so quello. Diciamo quando c'è quel caldo fastidioso, la K da fastidio, ma quando è un freddo, anche il freddo da fastidio, dai. Io non ho caldo, mi c'è un riparo, c'è un po' di fresco, e non mi sento più un vero, quello che ti butta a terra, non quello che dice, ma quello che fai è una maledetta, ma ti sei a casa e via, cosa vuoi fare? D'inverno, se non c'è il condizionatore a terra in casa, c'è l'estate, volevo dire, se non c'è il condizionatore, muori, è l'estate. Mica lo so, purtroppo già ne so qualcosa perché la casa mia è l'ombra di freddo d'inverno e l'ombra di caldo d'estate. Ma che non è che diceva tu? Sì, già c'è una pompa di calore, diciamo quest'estate non è che l'abbiamo usata più di tanto perché non ce l'ho mai, stavamo giù al mare, siamo già 2 anni che sto andando al mare giù in quel coso a Platamona, per cui non ne ho avuto bisogno, ma 3 anni fa già la gente si è rugato. Oh via, perché io non scorso. Stiamo passando due pompe di caldo, due motori, un caldo, non è una famiglia, ma caldo, di sigaretti, ma è un mese non buco. Purtroppo si devono lavorare, comunque ci parla, lasciato lì, mi illustra, che ti resta, fatti un buco, che ti resta, poi, ma un caldo, non metto, uia, però purtroppo devo lavorare lì, c'è un po' di caldo, allora non li vuole mettere a camastori, li ingrassa per forza, no? lungo sul genere, non so, io muro, l'acqua la tira già la linea, dei tubi, abbiamo passato solo i cavi elettrici, i tubi c'erano già prima. La parola è lavorare sotto il sole micidiale, voglio stare sotto il freddo, anche lo sole debelli a capo, ti si scioglie il cervello. Ma non so, anche per farlo purtroppo. E poi non lo so, sto passando, quando lo sole, questa la mani, questa non lo so, un caso. Guarda, abbiamo messo un prodotto per fare, per far scavare i tubi, ok, ma ci vuole un prodotto, non so, non so, non so, non si chiama, non mi ricordo. Stavo sfuggando, mi ha fatto, cioè, mi praticamente ho fatto una lavorare, più grosso è incandescente, come un cazzo non si usa qua. Se non puoi scaldare un bel pannelli solari, in un attimo quando c'è il sole diventa la temperatura dell'acqua a 80 gradi. Beh sì, praticamente ci vuole una gru, roba, una gru, la gamba, se fosse a portare su il buio, e ci abbiamo salito lui, ma quello è un bel grande, sembra che sarebbe 5 litri. Mi ricordo 300, come ricordo bene. E non so come sono fatti i soffisanti. Lui l'ha messo pesante, io via via. E però poi non ci abbiamo salito, un casino a passarlo, un casino. Quello di fare scendere i tubi, bucare, fare, agganciare, un casino. Poi l'abbiamo passato, cioè non li poteva passare, l'ha collegato lui. Io ero operaio, ma diciamo che ci ha dato una strada. Proteggi, smonta, vai, idui, da, non siamo la gruppa. E ora ci fanno 60 euro e se lo facciamo portare tranquillamente. Noi stiamo rischiando di caderci giù al petto. Molte volte si lavora così, in situazioni critiche, purtroppo se lo lavoro quando bisogna venire a fare un mese bisogna abbigliarlo. Lo so, guardi, farà bravo, farà bravo. Sono i 10 di maggio, ciao Roberto, ciao a tutti. Sarà anch'io. Ciao Mario, ciao a tutti, scusa, non ti avevo sentito. Non ho sentito, ma non vedi poco fa quando sei parlato da Luca? Non c'è, andato, lo volevo sentire. Ma però c'è un discorso pure, lo senti, guarda, non posso lo senti. Risorso? E chi è risorso? Avanti, buonasera. Sì, ti sento. Roger, ma non ho capito chi è per lui. Pellombo. Ciao, Pellombo. Buonasera anche a te. L'hai sentito? Qua stai usando, Pellombo. Qua te la stai usando. Ho detto che a te la stai usando. Io la presa di gatto. Se te la stai usando, non si deve. Se non ci arrivi qua, allora sei conosciuto il tuo braccio di ferro, la pietra, la muraglia, quello sì è una forte qua, forte arrivo, ma non capito cosa è, siamo molto bassi di radio, gli altri sono qua. No, io lo sento molto basso lo stesso di radio, dille a me se mi ascolta, a me, io lo sento molto basso, o chi lo ascolta, dillo tu, coso, Franco. Sì, cioè non riuscite a ascoltare io, voi siete molto più vicini, altro che la vicino, abitavo vicino a casa sua, lo conosceva bene, era una potenza, anzi una locomotiva, ha detto. Ascolta, quanto conoscerai, mio fratello è sposato con la sorella, a Giovanni lo conosci, positivo, è mio fratello, il più grande. Io non ascolto mai il rap del Piombo, lo ascolto benissimo, cioè non è quella radio apprezzata, sembra che ci abbia messo un po' normale, però lo ascolto bene, arrivo. Credo che anche lui a me mi ascolti, è vero, mi sentiamo, mi ascolti a me. Piombo, mi ascolti. Lo ascolta Mario. Sì, io mi ascolto la bazooka in terra. Aspetta un attimino, Luca. L'altro Luca, Luca! Lo volevo sentire, ragazzi. Ah, senso, Flipper, sì. Comunque fa migliorato, eh. Il radio ha migliorato, ma di brutto pure. Ma cosa che ha migliorato? Sono capottato fra, io rimediamo un apparecchio, come si deve. vivo, il tuo vecchio ricco. No, quello lì è andato in pensione, no, c'ho quello omologato, è successo. Ne sto cercando uno, fratto, che c'ha le mani in pasta. Vediamo. Sì, ma caro, voi come si deve la parete, il contiendo, il pagamento? Pagamento alla mano. Pagamento alla testa. Ma è proprio morto voi tutto quello di lì? Quello buonanotte. La parete di Cristiano. Aspetta un attimo, che c'è per il piombo, o se c'è Cristiano? Sì, io lo sento, che c'è per il piombo. Buonanotte per il piombo. Chi è per il piombo? Io ti ascolto, no, io lo ascolto bene invece. Te lo volete, lì prima l'aspettavamo più lui a me, eh sì, io no, forse tutte come dire al vento. Oh, Robin, dove stiamo durando? Zona quadrato, diciamo, più giù del quadrato, prima del quadrato. Prima del quadrato ci chiama Sino. È buona, la radio è ottima, è segnale lo stesso, non ti posso dare un riferimento perché questo apparato non ha niente, un altro momento magari lo vediamo con quello grande. Kappa, anche tu c'hai la scatola di patatine come il mio. Kappa, un ente più piccolino. Allora Claudio, a Franco, troppo la rimessa a Franco, appunto la compro un canna, non lo so, te lo regalo, ti spezza. E ya, è bello, ha così, sì, forte, ya. Più che bello, lo sta lasciando un po', vediamo un po' franco. No, ci fai sentire, no? Niente a che fare con 140. Ma io non lo voglio 140. ci mancavano per fare 4-5 giorni, era 260 mi pare. No, scusa, non ci siamo sovrapposati. No, non stavo parlando io, stavo parlando questo. Sono confuso, va bene. Comunque, il prezzo, scusa, il prezzo di partenza può essere anche 230-250 euro, il problema è che il 430 già in sé non serve meno di 400 euro. Sto parlando del 440, ce n'era uno, se ci sei attento, magari se sei fortunato riesci a beccarlo. Ma 400 euro se ne vale la pena. Bocca. Oh, dimmi tu. No, un po' triste, insomma. Con questo guarda se riesci a beccarmelo uno. Poi mi fai sapere, niente, lo proviamo e ci pagano. Allora lui, dentro va, allora invece potrò provare o... Qua non c'è nessuno, non c'è nessuno che tira la radio di quel genere. Si può trovare il computer e devi prima pagare e tu ti manda la radio, capito? Io l'ho preso già qualche una e la seconda si è interpretata una terza, la prima faceva schifo, era tutta davanti a posto, la seconda in ottimo stato, adesso vediamo questa qua, capito? È un casino. Provo a vedere, provo. Ma così in questo caso puoi prendere anche tutti i due. Deve rischiare, cosa lo dica? Non c'è nessuno, chi trova il 440, non ce n'è in giro, il mercato è chiuso, si può trovare in continente o tramite eBay, quindi via computer, oppure andare alle fiere come faccio io e cercarla, capito? Ma sembra che se telefoni fuori te la mandano. Oh, io sono stato che adesso siamo a fare più. Mario. Ciao Mario, buonanotte, ci sentiamo alle prossime, saluta Davide, ciao. Stanno lavorando così, purtroppo. E ti dai, capito. Non c'è niente da fare. Da lavorare così, tutti, chi sta comprando, a fianco la chiusa. Poi bisogna vedere se funziona o non funziona. Di solito ci siamo per garantire tramite lei, quindi via computer. Di solito devi bruciarti le mani e tu devi raccontare tutto lì. Capito? Vabbè. Comunque, niente. Io se trovo qualcosa ti avviso. Ok? Fai girare, là. Ok, lo fa bene. Avanti, quadrato. Comunque Claudio, quel 4.40 che ci avevo guardato, ci sono ancora le scatole originali, manuale d'uso e nuovo fiammante, e magari ci salirà a 1000, però è nuovo, se te lo guardi è fiammante. Comunque c'è di Magliende, Claudio mi chiama Luca, Cristian chiama Luca Claudio, è un casino di fronte. E allora lo devi capirli là. Che cosa ha detto Claudio? Che mi fai girare? Ok, ok Luca. Sono di un'ora, sbagliato. Sono così con Claudio Luca, ma mai di più gara, infatti vi ascolto, non mi prendo più, vi faccio due controlli qua, mi aggiorno tutta la parte che devo scrivere al computer prima di dormire, se no sta facendo già incazzare su cazzo il computer. Digitale, non mi prende, ho capito, dai, punto mettere, ma è il mio, mamma, perché non ti devi lasciare, devi stare calmo, dove hai digitato, dove c'è l'indirizzo? Ma l'indirizzo ci ho creato, non è proprio, ho fatto invio, con la cerca. No, che sito digitato, se secondo il sito mi digiti, cazzo, ho sbagliato, non trovo altre. Ho sbagliato quello del sito www.rai.net. Chi è il punto net? Ah, era il punto T. No, il punto net, era il T. Te lo vedete un attimo, non è più lì. Riaia, comunque è chiaro, non hai sbagliato tu, hai sbagliato Cristian, hai detto ok lui. Ah, è lui, infatti hai detto buio, io ho detto a Luca, ho detto poco fa lui. E questa è l'ora più bella per i coglionissimi, la riferita di solo è più grande. Uia, Anna, guarda la con 570. Cosa fa? Con 570 te la. Sì, sento antenna. Ah, io non me la moto 5. C'è un stazionale, sono caricato in stazionale però. Ma non è accordato. C'è quello automatico, ma l'antubare non accorda perché ogni 5 minuti voleva accordare, visto che l'antenna è messa male. Non lo portare allora, se ti accorgi che non accorda, non lo portare, te lo mandi fuori sintonia, poi è un casino a metterlo in linea. No, non è che non accorda, accordare già accorda, poi dopo mantenere 2 minuti, 3 minuti di nuovo, sono piena di nuovo, ma senti che riprendo dal cavo. È un DG per caso. Cosa? È un 570 DG. S570 D. Ma è roccia. Quindi accordo e me lo allargo però dopo così, 2 minuti di nuovo sessuale. Non è che ti riprendo dal capo, se lo interro. E tu a qui farò. Sì, pollicino già fa bene. Già provato e contattato, capito? riparo che la gara. E altro, lo mettiamo a metà luce. Stiamo modulando, Claudio, da un po' di via. La punta è che gioca. La punta è che gioca. A parte il fatto, Luca, che le antenne del barattino se ne possono mettere perché c'è, ci sono le antenne satellitari. E quindi il testo è stato praticamente, non dico comprato, ma comunque le autorizzazioni per il testo, lì ci sono ripetitori, quindi non ti fanno accedere a mettere nessuna altra antenna. Troverà lui. Io giro la montagna. Il campo. Io giro il palazzo. Dopo il culto gli ci vuole un mascolaccio brutto. Adesso? Adesso va bene, brutta che la birrozza. Sì, signore. Guarda, quante siamo dovuto adesso, Antonio? Due, fino adesso. Poi ci va a dormire il fiasco del vino. E lui, il mio è stato comprato, ma dai. Salio. Ma torre di controllo. Scusate un attimo. Grazie, va bene. Bello, saluto a tutti, Antonello, Mammolina, Cristian, Claudio, Luca, Franco e tutti quelli che stanno ascoltando. Buonanotte, ciao a tutti. A tutto il branco, no? Ciao Roberto. Ciao, ciao Roberto, buonanotte, buon tutto, alle prossime, bye bye. Ne approfitto anche io per fare quelle di saluto a tutti quanti, mi ha fatto piacere avervi sentito, l'ho portato. E niente, ci sentiamo eventualmente alle prossime. E qua, ripeto, per i saluti, saluto a tutti, faccio sicuramente di sopra, buonanotte, mi saluto io. Ok, vabbè, sì, naturalmente quello è pianto per me, ci sentiamo alle prossime, buonanotte a tutti, ciao, Chris, sta facendo bene che ci saluto, ciao. Ciao, ciao Anna, ciao Cristian, buonanotte, ciao Roberto, buonanotte, a tutte le prossime, avanti, allora. Salutoni e buon arrivato per domani, altrettanto a Cristian. Salutoni, piacere di avervi vicino soltanto e ci sentiamo alle prossime. Vai Mario. Bye bye, buonanotte. Ciao, buonanotte, ciao Antonello. Sì, ciao a tutti e due, buonanotte. Mario è scritto comunque fra poco fa, ciao anche a Mario che mi ha dimenticato di salutare. E ciao Antonello. Altre due mi ha fatto entrare, piano piano ti diamo una medaglia, ciao mamma, ciao Cristian. Allora, però, quello di vino. Che cosa vuole il vino? Allora, chiudo, quello di vino. Sapevo che avevi ricetta. Ma non so come più di noi, però mi sei corpo. Coricati, coricati. Ti diamo una medaglia. Ti metto il falcone normale, mi. Ecco che medaglia ti esce. Claudio. Allora faccio uscire io la medaglia, se non fate la bravi. Avete visto io le balle. Devo dire che c'è a fare, è un buco in terra. E se avessi, vi faccio in piedi un po' caretto, dimmi fra. Luca, compagni, voglio la mia corona. Ancora, c'è la regalarle. Dove vai? A fare la bravi, No, vabbè, io sono entrato poco in questi giorni perché sono impegnato da altre parti, però già vi sto ascoltando, già vi sto ascoltando. State tranquilli, io non vi mollo, vi manco stretto, molto, molto stretto. Aspetta, sì, c'è ancora. Aiuto, mi ha abbassato. Ci si è abbassato un po', però, Sì, non è l'antenna quella lì. C'è bisogno di un'antenna. Comunque la radio è quello che c'è paragone. Sì, c'è vabbè, c'è cercato di prima, ma comunque lì giù ti rimetto l'antenna, perché con l'apparecchio non risuona con quell'antenna lì. Con l'apparecchio deve spingere. Stiamo trovando tutto negativo, non te ne accorgi che è negativo. No, tu te ne accorgi perché c'è in alto il segnale più forte da me e non ce la fa passare. È tutto negativo, la radio va bene ma è tutto negativo. Antenna, antenna Michele, Luca, antenna. E il metatore specialmente. Anche, il metatore specialmente, anche. Poi Antonio sta girando una domanda, ma già te la faccio al telefono. qualche problema. Comunque Luca, abbassati il vatto, che potrebbe essere, tutti i bucci che sono fatto io, che ha avuto questo problema, quando stavo a barattino sono andato più di 10, sembrava molto picco. Ma chi era il bici motore in garage a Mario? Questo vatto io? Perché l'hai portato quel motore in garage a Mario? Beh, perché non ho portato niente io. E chi l'ha portato? E chi l'ha portato di cammino con l'apparecchio? Non l'ho mica comprato io. L'hai portato tu, però l'hai fatto avere tu. No, non ho fatto avere niente io. Allora sei confuso, per quello momento che l'hai portato tu. Non ho portato niente io. Di cammino con l'apparecchio, l'ho portato io e ti ho detto sì. È mio e basta. Ma siccome non è mio, non l'ho mica provato io. Io so di chi è, quindi a tutti i dirmi. È amico tuo, è il padrone di quella radio. Capito? Era amico mio, è amico tuo. Con me non lo sapevi di quella radio, nemmeno va bene. È un comodo totale, ce l'ho qua io, non l'ho mai usata nemmeno. Ma se lo usavo io quando lo stavo usando qua, per me lo tu mi sembra lamentato. Con me perlomeno. Però lo so con gli altri. Lo stavo usando lui, nessuno si è lamentato. Sono domani si è lamentato, non lo so io per lo meno quando stavo uscendo stavo proprio nel cazzo, ti ricordi anche tu, mi sentivi bene, mi dicevi mi sentivi, poi non lo so, lui è andato per i fatti suoi e l'altro per tanto. Ma va bene quella radio, non va per niente bene, proprio zero completamente, capito? Non va per niente bene, è una radio che a parte è stata una sintonia continua del canito già puro. Capito? Quindi le cose vanno spiegate bene, mi dispiace che Mario, comunque, a me non me la fotti lunga, però io mi esprimo per quello che so, perciò a me quando le cose non vanno bene, io le dico sia in radio che di persona. Appena non me la fotti tu la radio, capito? Perché quella radio non è sintonia continua, è decamente, e nemmeno va bene, perché non ha nessuna relazione, nemmeno. Cioè sono amici viene, e basta, è come lo sollevi appena. Fischia e le madri di tutti i rigori, quindi che cazzo di radio le avete fatto comprare o ha comprato per meglio dire? Ah per meglio dire ha comprato, non sono stato io per la bagna, quindi non so cosa dirti. Vabbè, parleremo di persona che possiamo scambiarci due lei diverse. Quando le due con le ragazze ne approfitta subito, ma la giusta che c'è. Perché oggi la compagnia, però allucinanti siete. Ma nessuno ti ha raccontato la tua, nessuno ti ha raccontato la tua, però ti sto dicendo potevi seguirla meglio con l'operazione, pur sapendo che per Maria non va bene quella roba, capito? Visto che sono amico potevi seguirla diversamente, non è che non ha problema con te, ma ti voglio dire che tu potevi seguirla diversamente e dire no, fermo, quasi il re, non va bene, non va assolutamente bene, per quello che voleva lui mi. No, ti spiego, siccome io quando hanno fatto il concordato tutti e due, io non c'ero e non c'ero niente, l'unica cosa che si è chiesto a me avere se l'apparecchio funzionava bene, e tu sei completo, io l'ho usato e funzionava bene, poi non lo so, sono cose loro, a me non mi riguarda, mi ci metto in mezzo nelle affari degli altri, come si dice al baracchino, quando ti fai cazzo il capicentrale, cosa ho fatto io, tutto lì. La mia ha funzionato bene, io stavo uscendo bene, ho detto sì, e per me va anche bene come apparecchio, ho detto, se ti piace, e ha detto, non è sempre continua, come gli effetti CTB, c'è la scheda di memoria per digitalare, poi con la pedale vai e sali scendi dove vuoi, ho detto, perché è vero questo, per lo meno come ci va bene, poi non lo so, io lo stavo dando qui, e altro non so cosa dirti. Non è mica colpa mia, se tu l'ha preso, se non l'ha preso, se è stato fatto quello lì. Naturalmente, scusami, non ho capito. Mi sarei dovuto andare a dire, beh, là non ti dai questa panica perché questo l'ho visto io, non sono affari miei d'altronde. Sono cose tue, subito di tu, perché sono i miei. Ma cosa c'entra? Se io sento uno che sta prendendo una cosa, dico, quanto è prendendo? Questo. No, lascia perdere, non va bene, perché io l'ho usato, perché io qui e là, eccetera, eccetera. E c'è quello che consiglio, ho capito. Allora io ho sentito male, il direttore di questa cosa. E c'è questo, quello è, ho capito. C'è il sotto l'unica delle memorie, sì. Pensando questo tipo di microfono, sì. Ho già capito che radio è di chi è. Quindi insomma, vabbè. Siccome a volte sia in radio cerca di consigliare a fare o consigliarci, per meglio dire, tra di noi va bene, altrimenti prendiamo fottiture, capito? Come praticamente sta succedendo da un po' di tempo a questa parte. Mi dispiace che sia Mario che sta usando la radio, non va bene, perché sicuramente per lui non va assolutamente bene. Io ce l'ho e non è una radio che può andare bene per la M. Uno perché è decamitrico e uno perché ha una scheda per la M che non serve a niente, e praticamente sale decamitrico per fare attività amatoriale, tutto lì. Quando ci vuoi non so bene Tonietta, naturalmente, poi non lo so di questo. Adesso mi stai chiedendo un'altra cosa. Mi sono seriamente attento. Comunque, con la periferia mando a fretta, lo sai anche più di me. Quindi quando sei ricezione devi centrare prima uno poi l'altro, a meno che non fai come facevo io, che usavo un apparecchio di ricezione e tranquillamente uscivo, come gli effetti 7B, gli effetti 250, sono apparecchi che purtroppo sono andati così a mano stretta, non ci possiamo fare niente, non è come avere un Chemo C80, che quindi vai, ascolti tranquillo, trasmetti e ricevi, è diversa la cosa, è una cosa antica, capito? Cioè, sul valore della panica e basta, non è equivalente a un 70, un 440, già lo sai più di me. Allora, l'avviso di piaciuto quello, ho detto, pigliati quello, devo ti dire, io l'ho usato un po' di tempo e non ho mai avuto problemi. Non proprio vuol dire mica che stavo uscendo male, no? Se no, nessun problema non si è accorto. Il 24 dicevo di 40, sto usando, perché non sto usando? Sto usando l'emulatore che okay, più di 10 watt non posso usare. Che apparecchio sto usando? Sto usando questo apparecchio qui. Portato, grazie a Luca ha portato l'aiutato Adriano, ha fatto il sistema, adesso ti muovo il tempo, tutto lì. Non potevo fare altri mezzi, però mi sono fermentato, senza dirmi niente. Antonio, guarda, questo apparecchio non va bene, tu cosa mi hai detto? Guarda, già lo conosco, con l'apparecchio va abbastanza bene, va nei... Più di tanto potevo pompare, lo sai. Ti ho pagato, vabbè. Ti apri il telefono, parliamo di persona. Io continuo sempre a rimanere nei miei passi, poi. Valore, tanto valore lì, tu vai a serrare. Ma, no. Io ci ho bisogno di vedere con Mario, mi spiega un po' com'è la situazione. Poi mi avvicinerò io, cercherò di farlo uscire al meglio possibile, ma sarà molto difficile che possa uscire a questi livelli, perché lui a questi livelli voleva uscire, quindi una roba del genere no, non uscirà mai a questi livelli, mai e poi mai, perché non ha processore, non ha niente con la radio, è come su lì che ho conosciuto nel McGee, siccome è nato per lavorare a banda stretta, giustamente come hai detto tu, la radio distorce ed è una grandissima cagata. Luca, ci sei ancora? Luca non c'è più. Roberto, se n'è andato? Fra? Sì, Roger. Anch'io. Adesso chiuso perché domani mattina mi aspetta una giornata tragica. Non dire stressante. Vi saluto già da voi, se volete poi già ci sentiamo. Ciao Claudio, buonanotte, buona giornata per domani. Altrettanto Alicia. Ciao lì, buonanotte e non male. No, vabbè, non devo per dimenticare la 27, ho preoccupato, al limite devo per dimenticare il poco giù. Raggio, ciao, buonanotte a tutti e due, ci sentiamo domani. Ciao, Fraccia, sentiamo. Ma perché tu non hai lavato stasera? E chi? Tu e Franco. Franco chi? Franco del Tauro. No, io ho un strappo, quello è strappato. Da chi? Una negra? No, sono un ubriaco, vediamo se qualche CD, così domani mattina lo vediamo col cucchiaio. Ah, CD? No, forse CD, boh. Appena ho stampato la scala, lo dico a duro, sì, sì. Tutto, infatti ti ho detto, aspetta un attimo che c'è stampato uno. Ah, carizzai, quello va visto che la lì. Ciao, ciao, buonanotte, ciao, ciao. Se ci vediamo domani mattina, faccio un salto a questa commissione, poi passo... Passo un attimo a prendermi il caffè. Vabbè. Quindi mi tanto piace la fare di Mario. Di Mario? Sì, ma abbiamo catenati io di Mario. Qual è il problema? Sono qua, come? Sono qua, non ho parole, capito? Non ho parole, Spero almeno che il prezzo sia stato contenuto. Spero almeno quello. Guarda, io gli ho detto a Mario, guarda che quando l'ha usato, non si, quando le siti che gli siamo fatto, non si è abituato a usare quello. Ricordati che ha detto che stavi usando le siti STB, ed è la stessa identica cosa, gli ho detto. Poi, questo è, cioè, quello lì è a banda stretta, invece che è una banda larga, ascolti tutti. Per parte che hanno fatto anche il critico per il mio 680, quindi io non so più cosa pensare, quindi cioè a me non mi dicono niente, a te che lo dico, la buona un gioco. Comunque la parte che funziona bene, perché io ho usato, stavo fischiando, cioè, la parte che ho usato, ho detto, ma non si è mai lamentato nessuno, da me non so cosa dire. Per il mio, quindi per essere preso non è come da lui che uno naturalmente, perché la differenza è sì, no, è un apparecchio, una banda larga e un'altra banda stretta, il mate sono 40 e tu me l'hai detto, poi c'era quella fase là che mi dici i canali memorizzati, qui c'è da quella ampia esportante di frequenza da una parte all'altra, che in pratica ti fa come se fosse di linea continua. Tutto lì. Però a me io ho stato a voltare, funziona bene come apparecchi, io ho usato per forse un mese, l'ho usato non di più, ma ogni cipria continua, il dare altro serve per le memorie, basta la cipria continua, però ormai in 10 metri, in 10 metri 40 80 o neanche 160 metri, e poi c'è la banda, la banda CB che tra l'altro è stata modificata dai 10 metri, quindi il 28 non sale al massimo, passò la frequenza amatoriale, quello che manca lì è stato messo nella 27, tanto meno conosco come metà che cosa fa, è 40 watt, 40 watt in banda laterale, è 40 watt, se è 40 watt in AM va tutto in negativo, perché non abbiamo già provato con Mario. Di rimediare qualcosa, se gli altro qualcosa di buono, un 140, un 430, qualcosa del genere, che possa garantirle l'alta fedeltà di modulazione, quello proprio fa schifo il cazzo. Non ho un 140, ho un 180, quindi bisogna buscare uno di quelli, capite? Basta. Tutto è abituato al mio, no, è come usare un da 127 a 16, quando hai un Fiat 1 in Ferrari e poi hai un Apollo, la cosa è diversa, mi sembra logico, e quindi il problema sono è quello. Io non mi interessa né da chi l'ha preso, come l'ha preso, perché l'ha preso, io sto parlando della radio. Non è una radio proprio la NM questa, già stato contattato, già stato fatto, fatte qualsiasi tipo di prova, in banda laterale va bene, però la NM ha una scheda troppo stretta, non fa, come una radio per le M. Io ho il 902 DM che è un mostro di apparato, grande quanto il 940, e c'ha tutto, dalla valvetta, capito, decametrico, ma c'è tutto, c'è gli 11 metri, 10 metri, e tutto, anche 160 metri, però in più c'è il processore, il compressore, capito, e c'è 250 watt di potenza, però tu lo provi, dai, sì, molto meglio di quello, però va bene, non va bene. Tecnicamente è molto molto difficile che vada bene. Il 7B già perché era una radio un po' particolare, così tutta schede, e quindi riusciva a lavorare un po' il 27, con frequentino, e andava bene. L'effetto 250, ma il 07 non è. È già un altro tipo di radio, capito? Fatta diversamente, no? Non ha niente a che fare con la M. Non ha niente a che fare con la M, infatti pensavo che non ce l'avesse neanche la M. Invece poi quando l'ho preso, e ce l'ho anch'io, ho visto che era la M, subito mi sono messo a provare a fare, ma no, non mi piaceva la modulazione, proprio cupa al massimo, stretta, non c'è nessuna regolazione, non è che lì puoi regolare come gli altri radio, nulla, niente. Addirittura l'avevo provato anche con l'MD1B8, figurati col suo microfono originale, ancora peggio. Quella per chiamare la fretta e basta, non vedo niente, anzi, come le effetti 7B e le effetti 250, sono apparecchi che escono cuffi di modulazione e basta. Le ricezioni sono bellissime perché la banda fretta ti crea problemi di ricezione, però a quanto state ne è molto molto meno. Io non ho già perché come questo qua, la verità. Questo qua, e tu già lo sai. Guarda che è molto meglio, quello lì, il fondo è capo che costa la verità. Il filtro, non sentivo mai con la scarica di auto, con questo è un cesso, eppure costa il doppio, e non ce l'ho tanto. Però, a parità di cose, forse è molto meglio quello che questo. Per dirti, ognuno ha i difetti su e gli suoi, o caro, sei più di me. Io per avere un apparecchio come si deve, se vado lì nella zona dove abito tutti, mi sento di me, devo avere un apparecchio che c'è almeno 6 filtri, se no non è usato, ci lo butti nella finestra. Ah, infatti, io sul 440 il mio è completo, c'ha tutti i filtri, AM, CCB, CVW, ce li ha tutti, perché altrimenti non riesce a lavorare bene. Io col 440 lavoro alla grande, ma molto molto bene, perché è molto selettivo e c'è tutto quello che serve per poter parlare. Ma c'è stato quel dubbio, quello là, come ricezione, è un ottimo ricevitore, non fa più da mai, ma come trasmettitore per la M no, per le bande laterali sì, va molto bene, c'è il passo band tuning che funziona bene, c'è il blanco che funziona bene, però tutto sempre per la banda laterale, per la M non gli hanno fatto niente a quella radio, proprio zero completamente. Nessun accorgimento, capito? Proprio perché è una radio che lavora in quella maniera lì, tutto lì. Vabbè, Antonio, io me ne vado andando, comunque già ci sentiamo. Il telefono che l'altro giorno forse ti ha perso il numero, ma ce l'avevi spento, era irraggiungibile, ero lì in via Rana Basso e tu andassi a entrare a prendere il caffè. Invece non mi hai risposto, forse no. Hai visto il numero, hai visto che era blu? No, se per il numero ci rispondo, a meno che non ero magari in cucina e il telefono è in salone in casa di mamma, capito? Perché stavo facendo cosa là, anche stasera ero lì, d'altronde. E forse ci sarà anche domani, non lo so, domani devo tornare a vado a casa di mamma. Comunque al limite basta chiamarmi, ti dico dove sono e tu vieni intanto qua l'attore, io lo sai, la volta mi sono venuto Claudio qua, ecco che è un bastardo, detto Claudio, un gran bastardo, perché lo sapeva che io da casa di mamma mi servire qualcosa, gli ho detto a girare male, e si è messo a ridere, e comunque la prossima volta è tappato la vela, io dico, avvisami quando scendi qua giù, se non c'è problema, vieni, faccio venire di mettere a chiamare, ci vediamo con me, parliamo, non è un problema, perché lo sai. Beh, io Antonio, non ho preso il numero perché ti avevo telefonato, non me l'ho preso, ma vedo vicino. No, se l'hai rispetto, forse non eri tu che hai dato la chiamata e no, chiaramente non sei rinumorizzato e non sapevi di chi è. Io ti chiamo. Lei si è acceso anche l'altro giorno, il datore, ma accompagnarlo a ritirare la macchina. Capito? Vabbè, mi si stanno chiudendo gli occhi, gli ho capito. Educarsi in radio, non qua, stavo facendo prove, provette da tutte le altre parti. Io. Dai, vi saluto tutti, ciao, buonanotte. Già ci sentiamo comunque, così magari ci mettiamo d'accordo e andiamo da Mario, vediamo un po' di farlo camminare con la radio, perché è un peccato giustamente, ormai ce l'ha, bisogna metterlo in sesto. Ciao, buonanotte a tutti, QRT, bye. Ciao, ci sentiamo, salve. Alle prossime.